La Befana la conosciamo tutti, è questa strega vecchia e brutta che vola su una scopa, indossa un gonnellone scuro, un grembiule con le tasche, lo scialle, il fazzoletto, ciabatte molto consumate e tante toppe colorate. Insomma, si sa che la Befana viene di notte con le calze tutte rosse, col vestito rotte, forse non rosse, no, forse rosse anche no. Rosse, ma soprattutto rotte. Però è anche una vecchietta sempre sorridente, gentile, porta le caramelle ai bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi, anche se ad alcuni bambini piace di più il carbone delle caramelle che porta. Comunque, sì, che è sempre dolce, vabbè. Quindi non vale tante volte. Comunque non è solo una vecchietta la Befana, nel senso che 2-3 giorni fa in rotonda, siccome non ho dato la precedenza, uno mi ha dato della bauca Befana e quindi sono è gentile però. Veramente sono rimasta folgorata da questa apparizione, comunque mi sono sentita nella veste. E dalla gentilezza che gira nelle passate. Probabilmente non si sa neanche che l'origine di questa figura della Befana risale a tempi molto antichi. Fa parte di quelle tradizioni agrarie pagane che festeggiano la fine dell'anno e soprattutto la rinascita dell'anno che arriva. Già dagli antichi romani si diceva che nel periodo, più o meno in questo periodo, quindi l'inizio di gennaio, volassero delle fantastiche figure femminili per i campi, sui campi che erano stati appena seminati, in modo da portare abbondanza e prosperità per l'anno venturo. Erano capeggiate, si dice, da Diana oppure da un'altra dea, che alle volte era chiamata Sazia, quindi da sazietà, o Abundia, da abbondanza. Mm. Con l'arrivo della Chiesa Cattolica e quindi la lotta alle tradizioni pagane, vengono condannate queste credenze come frutto di influenze sataniche. Però il popolo continua a credere a questi vagabondaggi notturni, però non li vede più come benefici, ma come infernali. Nel Medioevo, attorno al 1200 circa, la Befana, che è una vecchia e brutta perché rappresenta la natura ormai spoglia e una natura invernale che è pronta a rinascere, diviene anche una figura sacrificale, diventa la vera e propria Befana che conosciamo adesso, che viene poi bruciata, appunto, come eliminazione del vecchio, per far posto al nuovo che rinascerà, appunto, dalle ceneri. Queste sono le leggende antiche della Befana. Ce n'è una anche più cristiana, che è legata ai Re Magi e alla stella cometa, ma ve la racconto dopo la prossima canzone. Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa. Ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me. Contadino del cuore, la mia gioia mi costa sudore. Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta. Di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io Re Magio, tu stella cometa. Io Re Magio, tu stella cometa. Mi devo allontanare da te, per vederti tutta intera. Devo far finta che non ci sei, per scoprire che sei vera. Questa sera la signora dell'albergo ha cucinato le patate come le fai tu. Arrosto un po' croccanti fuori e morbide nel cuore, proprio come le fai te, proprio come te, proprio come te. Mangiandole mangiavo te come una comunione. E sono scappato via perché da troppo amore non so respirare. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, questa parola vista da lontano. I Re Magi e la stella cometa cosa c'entreranno mai con la Befana? Nessuno lo sa? Nessuno lo sa? Sì, sei, arrivano i Re Magi, sì. E quindi è il loro compleanno. Compleanno, bene! Specialmente comune! Certo che compiono gli anni tutti e tre allo stesso giorno, è curioso. È vero? Dai, il super party. In realtà c'è una leggenda cristiana che vede la Befana connessa con i Re Magi. Pare che i Re Magi sulla strada per Betlemme e per andare a trovare Cristo, sì, nato da si poco, fermarono a chiedere informazioni ad una vecchina. No. Le chiesero con molta insistenza di accompagnarli a trovare il Salvatore, però lei decise di non uscire di casa e quindi non li seguì. Subito se ne pentì però di questa decisione e quindi uscì con un sacco pieno di dolciumi alla ricerca di Gesù Bambino. Non riuscendo però a ritrovare i Re Magi, diede i dolciumi che aveva nel sacco a tutti i bambini che incontrava sul suo cammino e da lì pare che giri per il mondo distribuendo i dolciumi per farsi perdonare. Quindi questa è la leggenda più cristiana di questa figura befana, brutta, brutta però generosa, insomma. Esatto. La dolcisce, insomma. Esatto, è questa figura che probabilmente ha più a che fare con la cultura pagana che cristiana. È comunque una tradizione molto sentita qui nel nord-est e anche in altre zone come il Friuli, giusto Jessica? Esattamente, particolarmente nel Friuli sapevo appunto che l'Epifania viene festeggiata in modi molto diversi e molto particolari, ma di questo parlerò dopo nel mio intervento. Esattamente, e, essendo proprio una tradizione italiana, anche se in altre regioni d'Italia la Befana è meno sentita rispetto magari a un San Nicola piuttosto che a una Santa Lucia, penso alla Lombardia in questo caso, e mentre prima con San Nicola pensavo al sud Italia, essendo una tradizione italiana e originariamente italiana, il fascismo caldeggiava la sua questa festa, il suo festeggiamento, proprio per quest'opera che era l'idea fissa del fascismo di italianizzazione della penisola. E quindi tutto ciò che era italiano era molto caldeggiato e molto fomentato e veniva incoraggiato moltissimo. La Befana portava i dolciumi, li porta anche adesso, ma i bambini l'aspettavano forse di più un tempo quando in periodi di magra e di povertà era più raro ricevere dei doni. Era un evento isolato, mentre oggi la Befana, nel senso di avere dolciumi, di mangiare cose buone, è tutti i giorni, nel senso infatti, che non c'è più la differenza sostanziale che c'era una volta. E quindi si perde un po' quella immagine del nuovo e quindi dei doni e anche dell'essere cattivo o buono, insomma. E non so voi, a me la Befana incuteva anche un po' di terrore. Io la notte del 5, tra il 5 e il 6, quando arrivava la Befana, io non mi alzavo dal letto manco per niente, perché arrivava la Befana e io avevo paura, una paura tremenda di trovarmela di fronte che non avete neanche idea. Poi c'è questa tradizione di brusare la veccia, per dirla alla veneta, e quindi la Befana che viene messa come fantoccio sui panevin per essere bruciate e quindi per eliminare il vecchio e ricostruire il nuovo, come si era detto prima, dalle ceneri. Chissà più si va avanti, più sono sempre più belle le befane, che vediamo che bruciano ormai, hanno paillette e le scope sono fatte in maniera bellissima. Comunque, insomma, hanno il folletto adesso, non hanno più la scopa, c'è la scopa elettrica. E io me la immagino sul rogo che pensa, impizzeme il fuoco, light my fire. Yeah! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in Anna Maya. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Rachele ci ha introdotto il primo elemento dell'Epifania, ossia la Befana, ma l'altro elemento caratteristico, soprattutto nel nord-est, è il Panevin. Dovete sapere appunto che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si brucia la Befana. La Befana dovrebbe essere l'incarnazione appunto di madre natura, la quale appunto a inizio anno è una bella giovane, ma durante l'anno si consuma fino a diventare una vecchia rugosa, appunto la vecchina, la Befana, che viene fatta bruciare nel rogo come buon auspicio, affinché appunto dalle ceneri della vecchietta possa rinascere di nuovo la giovane natura per il nuovo anno. Prima di morire, appunto, come ci ha spiegato appunto Rachele, la vecchina però faceva l'ultimo atto di generosità per distribuire i suoi doni. Oltre a cantare Light My Fire. Oltre a cantare Light My Fire, insomma, aveva anche questo spirito artistico. I falò di inizio anno sono molto popolari nel nord-est, però noi lo chiamiamo Panevin. In altri posti appunto del Veneto o del Friuli Venezia Giulia, dove è molto sentita questa tradizione, prende nomi diversi. In Friuli appunto si dice Pignarul, nel Venezia Giulia Seima, nome che non ho mai sentito, in Veneto appunto il Panevin o Panain, ed è un appunto un insieme di due parole, Panevin, poiché il pane e il vino era il cibo povero che si consumava durante questi festeggiamenti. Poi abbiamo la Pirola Parola, la Veccia, e non vi sto a dare la spiegazione perché avete capito appunto la storia della Befana che veniva bruciata, oppure la Fogherada, la Bubarada, questo si dice bella ancora, questa. La Bubarada, Foghera o Casera. Posso chiedere anche una cosa, cioè il pane vin esattamente a cosa si associa? Cioè c'entra il vin brulè e la pinza, oppure è legato al cibo dei contadini? Cioè... È legato al cibo dei contadini, poiché era l'occasione durante la quale le famiglie appunto si ritrovavano attorno al fuoco in mezzo ai campi, e era un momento di condivisione in cui quindi poter mangiare e bere assieme. La pinza diciamo, è venuta dopo e l'arricchimento. Ma la pinza del è una specie di... è un pane comunque, è un cibo, è un dolce povero. Sì, è il dolce fatto con gli scarti di tutto quello che era rimasto dalle feste. Difatti hai i fichi secchi, l'uvetta, tutto quello che era rimasto dalle feste veniva buttato dentro la pinza. È una specie di polpettone della domenica, insomma. Polpettone dolce. Tutti gli scarti delle feste natalizie. Comunque anche questa è una tradizione molto antica poiché ha un'origine precristiana. I Celti al loro tempo accendevano dei fuochi per ingraziarsi le divinità e bruciavano un fantoccio che rappresentava appunto il passato. Ancora oggi appunto la fiamma viene a rappresentare il vecchio che brucia e in base alla direzione appunto delle faville si può predire come sarà il nuovo anno. Ecco, in merito a questo c'è anche una specie di filastrocca che ci spiega come leggere le faville. Se faive va al garbin, prepara il carro per andare al mulin. Se le faville vanno al garbino, prepara il carro per andare al mulino, cioè se vanno verso ovest. Se faive va mattina, ciol sul sac e va a farina. Se le faville si dirigono a mattina, cioè verso est, prendi il sacco e vai a cercare farina. Da me si diceva, se faive va a ponente, panoce niente. Se faive va a levante, panoce tante. Senti che poesia! Una meraviglia! È la stessa cosa, però... Quindi, se vanno a occidente, l'annata sarà buona e raccolta abbondante. Se si dirigono invece verso oriente, si prevede un anno di carestia. Ma io non ho mica capito molto bene, ho la stessa confusione di quando vado a vedere i panevin con mio nonno. A levante va bene e a ponente va male, o è a ponente che va bene e a levante che va male? Mi spiegate sta cosa che... Beh, guarda, le discussioni possiamo concluderle così. Faive o non faive, che vadano occidente o oriente, l'importante durante il panevin è fare festa. Tranne la Befana, che è lassù che dice: riempizzeme il fuoco anche a sto anno. Allora, abbiamo detto appunto l'importanza dei falò ad inizio anno, però appunto nel nord-est la casera o il panevin non viene fatta dappertutto alla stessa maniera. Io ho trovato... Casera, maniera. Era fatto apposta l'errore, nulla è casuale per le Lipstick Lagoon. Per esempio a Concordia Sagittaria viene fatta la casera sul fiume e mi sembra anche a Fossalta di Piave, quindi qua vicino. Mm-hmm. Ossia viene fatto un falò propiziatorio su una chiatta navigante in mezzo al fiume. Nel caso di Fossalta, appunto, Fossalta di Piave sul Piave. Nel caso di Concordia, invece, sull'Emene. Invece è molto originale, e potremmo andarci anche noi, no, non è vero, assolutamente, a fare la regata delle Befane a Venezia, dove degli ultra cinquantenni si travestono da Befane e percorrono su barche il Canal Grande. Molto allegramente, ecco, qua io non sono mai andata e mi piacerebbe molto andare. Per fortuna che Venezia è la città più romantica del mondo, cioè questa cosa molto... Molto pittoresca. Ma sono anche romantica. Molto goliardici. E tu pensa ai turisti ignoranti che penseranno sia la regata storica. Beh, per quello hanno così un'impressione un po' distorta dell'Italia all'estero, perché beccano questi eventi particolari, appunto. Invece nel Friuli, dove è molto sentito come evento religioso, per esempio viene fatta a Cividale del Friuli la cerimonia della spada, in cui viene ricordato appunto il ritorno del patriarca e viene rievocato appunto questa cerimonia nel quale viene consegnata una spada, una festa medievale, la cosiddetta messa dello spadone. Questo mi sembra una cosa un po' particolare. È un po' diversa dal solito, perché sì, usano altri elementi. Esattamente, mentre questa è molto simpatica, come gli Ans, viene fatto il lancio des cidulis, il tradizionale lancio delle rotelle infuocato al posto del falò. Comunque, e dove lo lanciano ste rotelle infuocate? Non lo so, spero che spero non contro le persone, appunto. Sono allontanate di qualora vi troviate in questa zona del Friuli, credo. Va bene che il fuoco purifica, ma insomma, ma non esageriamo. È troppo. Invece, se avete qualche annuncio importante, potete farlo durante l'Epifania, perché ho scoperto che, secondo la tradizione, vengono annunciate le nozze. Le nozze? Esattamente, se avete intenzione di sposarvi durante il nuovo anno, nel 2011, l'annuncio viene fatto solitamente all'Epifania. Quindi questa è una cosa interessante. Però. Oppure, questa è un'altra cosa interessante, che deve essere non veramente incredibile, perché... mi è già da ridere. C'è scritto che è tradizionale in Friuli, ma questo non ho mai visto nessuno, correre per i campi lungo i filari delle viti con fasci di canne accese, gridando panevin, panevin... La grazia di Dio, Joldarin, godremo. Cioè, questo mi sembra veramente degli scalmanati che corrono per i campi. Deve avere una buona polizza assicurativa questo qua. Decisamente. Comunque, non è vero, come dice il proverbio, che l'Epifania tutte le feste porta via, perché, e questo ci tengo a dirlo, l'Epifania segna l'inizio del carnevale, quindi l'inizio delle nuove feste. Finisce un ciclo di feste e ne iniziano in realtà altre. In Sicilia infatti c'è il proverbio per i tre re tutti olè, proprio per dire appunto che inizia un nuovo periodo di festeggiamenti. E difatti a Roma, dove sono molto goliardici, festeggiano in Piazza Navona le bande di giovani cantando, facendo confusioni. Quindi ragazzi miei, abbiamo finito un periodo di feste, ci portiamo ad un nuovo periodo di feste e siamo anche arrivati alla fine della prima parte della nostra trasmissione e quindi ci sentiamo dopo con i nuovi argomenti. Il giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più, è una giostra che va questa vita che gira insieme. Ed ecco ritornati con dopo questa canzone tratta dal Re Leone, vero Rachele? Cerchio della vita, quindi questo cerchio che si apre, si conclude, che continua a girare, come d'altronde i raccolti e le speranze dell'anno che si conclude ma subito ricomincia e quindi viene festeggiato con la Befana, il pane vino e tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Bello, quindi con questo messaggio inaugurale cominciamo, però questo intervento lo vorrei cominciare con un piccolo gioco. Sì, allora, giochiamoci. È il gioco di Marzullo. A tutti gli ascoltatori da Marzulla, allora mi vesto da Marzulla altro che da Befana, ponetevi una domanda tutti qua, non dovete dirmela ovviamente, voi non potete, per neanche voi gli sticker lagunazze Befanazze, ponetevi una domanda, un attimo Nadine, ok, dammi vi do 3 secondi, 3, 2, 1 e io da Befana vi do la risposta. Dovrai fare il primo passo. È interessante. Ok, quindi meditate quello che vi siete chiesti, avete e agite risposta. E agite e agite, giusto, quindi il messaggio del nuovo anno è agite, prendete l'iniziativa. Da gioco a quotation, a citazione, perché così sono in vena così di citazioni questa sera. La preoccupazione del possesso è ciò che più di ogni altra cosa impedisce agli uomini di vivere nobilmente e liberamente. Quindi il discorso, o comunque il tema di cui tratterò in questo mio intervento, sarà proprio quello di liberarsi da tutto ciò che abbiamo di superfluo in casa. Perché è vero che la Befana si brucia, fuoco, liberatore, purificatore. Come fare ad iniziare un nuovo anno più leggeri, più liberi dentro? Cominciando ad eliminare ciò che abbiamo attorno a noi. Dai, tutti sappiamo, la nostra quindi casa, la nostra camera è piena si di... Si molla il fidanzato vecchio. Va bene, Rachele, sempre là vai a parare. Comincia dai nunnoli, nonnoli, com'erano. Allora, quindi... Quindi dobbiamo togliere l'albero di Natale. Vabbè, a parte dai, eliminare il presepe che quest'anno potrebbe essere un'impresa. Però dai, quelle sono anche le cose più carine che vogliamo che rimangano tra noi anche di più vero, è vero. Ecco. Però per esempio, cominciamo dal nostro armadio. Apriamo l'armadio e vediamo una sfilza di vestiti vecchi, colori, questi abiti che non usiamo da mesi. Cominciamo a adesso un nuovo termine dall'inglese clutter, che significa tutto ciò che è superfluo, decluttering, che vuol dire eliminare tutto ciò che abbiamo di appunto superfluo. Si dice che se una cosa non la vediamo nel nostro armadio e non l'abbiamo usata negli ultimi 6 mesi, è assolutamente da eliminare. Perché non la porteremo mai. L'avete utilizzato voi questa tecnica? Avete qualcosa che vede tanto tempo ma non l'utilizzate, però non avete il coraggio. Non avevo il coraggio di buttare. Sì, perché non si sa mai, io penso, che magari con queste mode pazze mi possa ricapitare di metterlo. Però hai ragione. Se dopo un tot di tempo uno non lo mette, di solito non lo metterà mai. Però. Beh, però tutto torna di questi tempi, quindi... Invece la tecnica appunto del decluttering ci permette di, spazzando via il disordine, fare piazza pulita delle cose inutili al fine di vivere meglio. Di fare un po' di ordine nella nostra vita. Nella nostra vita. Ma perché è così importante, ci chiediamo, sbarazzarci delle cose inutili? Semplice, perché gli oggetti inutili ci rubano spazio vitale e ci legano al passato. In realtà tutto ciò da cui noi siamo circondati causa anche confusione interiore, stress mentale. Quindi l'eliminare ciò che abbiamo intorno a noi quanto più possibile, ovviamente non le cose necessarie, però tutte le cose che sono là, in realtà non è che un aiutare noi stessi a liberarci interiormente. Mi sa che hai proprio ragione, sai, Nadine. Ecco, proverò. Quindi felicità, eliminare il superfluo senza sforzo. Secondo un recente sondaggio, ecco, posso anche fare una lista e... Sì, infatti la cosa migliore è dare a qualcuno questa lista e eliminare le cose, se uno non ha tempo può farlo. E la fa questa persona per te? Sì, potrebbe essere. Perché magari non abbiamo il coraggio, non ho quel moglione, non riesco proprio a buttarlo via, allora guarda, ti do la lista e fai tu. Fai quando torno... cuore non vede, occhio non duole. Secondo un recente sondaggio, infatti, le persone usano che percentuale degli oggetti che possiedono, secondo voi? Noi abbiamo 100% di cose. Di questo 100% quanto utilizziamo? Secondo me usiamo sempre le stesse cose. In percentuale un 20%. No, così poco. 20% delle cose che abbiamo le utilizziamo, quindi l'80% può essere potenzialmente eliminato. Mentre tutto il resto appunto è ammassato in ripostigli armadi. Tutte le merci stoccate in questo modo sono ingombro inutile e l'ingombro provoca caos, blocca l'energia vitale e limita la libertà di azione. Ma insomma, noi quindi quell'80% l'abbiamo acquistato inutilmente? Sì, oppure acquistato, però non l'abbiamo mai, diciamo, come diceva Rachele, usato. Questo ciclo vitale è fatto anche di rinnovo e di eliminazione, come la Befana brucia, facciamo bruciare metaforicamente anche le cose che abbiamo. Io avrei un consiglio, comunque, non acquistare direttamente quell'80%, così ci evitiamo anche la fatica di fare la pulizia dell'armadio. Ecco, comunque dai, questo è anche vero, perché si elimina anche il problema della pulizia. Però se proprio non è bello buttare, no. Però ci sono altri molti metodi comunque utili per riciclare le cose. Uno è magari darlo ad amici, familiari, se avete un gruppo di amiche che magari possono utilizzare cose, per esempio abbigliamento simile, oppure comunque iniziative e da organizzazioni anche di volontariato. Certo. Per il resto comunque ci sentiamo tra poco. Bene, la canzone arriva proprio a proposito. How and who do I say? I don't know how to say goodbye. Thank you, Rachele. I don't know how to say goodbye. Non so come salutare. Ma per vedere cosa dobbiamo salutare, vi do un piccolo consiglio. Diciamo, sono stata commessa in tra i vari lavori fatti, ed una cosa che ho imparato interessante è stata quella di ordinare le cose secondo colore. Quindi se per esempio voi aprite il vostro armadio e non sapete cosa buttare, una cosa interessante è riordinare il vostro armadio con un altro criterio. Per esempio, un armadio cromatico, mettere tutte le cose nere, poi tutte le cose blu, poi tutte le cose rosse. E quindi questo magari può aiutarvi a vedere, a capire meglio, magari avete più cose rosse, tante cose nere, quindi quella può essere eliminata, quella invece può essere abbinata a qualcosa, quindi possono saltare fuori nuovi abbinamenti che non pensavate di poter fare, quindi nuovi outfits, nuovi vestiti, e poi anche cose da eliminare o da passare ad amici, conoscenti, familiari. Avete proposte voi o... Io avevo una proposta, nel senso che secondo me i vestiti tu li acquisti le prime volte e li usi per le occasioni importanti, poi la usi magari tutti i giorni per andare al lavoro, per andare all'università, eccetera, eccetera. Poi le usi per casa e difatti io tante volte mi trovo con vestiti anche abbastanza eleganti a girare per casa e penso che i miei vicini si domanderanno: ma cosa fa questa? O fa un altro lavoro, o una persona alternativa, o è una pazza? E invece no. E dopodiché diventano bellissimi, stracci. E quindi vedete magari un bel che vestitino. Che pulisce le finestre con tutte le pagliette. Esattamente. Non viene proprio benissimo, firmati. Vi voglio dire questa cosa qua, non viene proprio benissimo. Infatti ho dei bei maglioncini di Marco che sono diventati da XL a XS. Come mai? Perché aveva bisogno di rinnovare l'armadio. Di sbagliato fare... quindi No, era... io non sapevo cosa regalargli e quindi ho detto forse ha bisogno di un maglione nuovo, però ne aveva già uno, non aveva spazio nell'armadio. Allora l'hai lavato sbagliando il lavaggio in modo che così hai eliminato il maglione vecchio. È tutto scientifico e anche molto generoso quindi come ragionamento. TNG diventa effettivamente docce e gabinetti. Questo humor inglese. Non ho parole. Fantastico. No, basta. Altro piccolo suggerimento potrebbe essere quello, se avete, non so, quelle bomboniere o quelle cose molto carine che le persone regalano, giustamente, sì, perché quella bellissima cornice dopo magari 3x3, 10 anni non volete più tenere, ma anche solamente se il porta confetti. I confetti ormai sono diventati marci, poverini. Ma scusa, ma tu non li mangi? No, io di solito tengo tutto confezionato, non mangio. Sì, ma parlano, cioè questa la nuova vita sti confetti dopo 10 anni. Dopo, visto che i confetti hanno cambiato posizione da soli, perché non so, magari li sbembo. Quindi tolgo il fiorellino che fa la bomboniera e lo metto su una addobbare un pacco che ora dico aprirli, cioè, aprirli prima e mangiarli i confetti. Non mangiate mai i confetti l'anno di questa sera. Non regali confetti. Io vorrei anche farvi notare che ha portato dei cioccolatini qui stasera. Dai, li abbiamo anche già mangiati. Quelli tutti. Sento male. Dai, quelli sono freschissimi. Non da cercare. Hanno solo 2-3 anni, rispetto sono ai freschissimi confetti. Dal frigo. La Befana in realtà ha il cuore buono, quindi non dà cose malvagie. Sono una Befana, però sono buona. Ultima cosa con cui vi lascio è un consiglio librario. Librario, si dice, sì. Un consiglio di lettura. Allora, autrice Dominique Loreau, editore Rizzoli, anno di uscita 2009, titolo L'eleganza dell'essenziale, gettare via l'inutile ed il superfluo per fare spazio in noi stessi. Quindi questo libro diviso in due ci aiuta proprio ad eliminare ciò che vorremmo eliminare ma magari non abbiamo il coraggio di eliminare. La Loreau in questo libro conduce tutti noi alla scoperta del concetto di essenzialità, sia in senso spirituale che in senso pratico. Nella prima parte, ricca di citazioni illuminanti tratti dalla cultura occidentale e orientale, ci insegna a separare l'utile dal superfluo e a stabilire delle priorità, a saperci organizzare e destreggiare il nostro tempo. Nella seconda parte, più pratica, dispensa consigli per liberarsi dalle montagne di oggetti inutili che si accatastano in ogni angolo della nostra casa. Quindi dopo questo consiglio di lettura vi lascio con questa bella canzone. vita has no end, la fine non ha fine. Difatti abbiamo appena visto come fare a rinnovare l'armadio e quindi a non porre fine alla nostra vita, ma a rinnovarla. E vogliamo anche vedere, visto che è appena cominciato l'anno, che cosa può mai esserci scritto nelle stelle per noi. E di questo ci parlerà la nostra Jessica Marchese, che divento astrologa per questi 10 minuti. Foxa. Allora, Foxa. Foxa. Beh, fantastico. Allora, io non volevo però cominciare subito con il classico oroscopo, volevo essere un po' più originale. E allora ho detto, ma perché non facciamo una piccola parentesi sull'oroscopo cinese? Allora, allora, intanto vi così faccio una premessa rispetto alla leggenda dell'oroscopo cinese, e c'è una bella storiella. Secondo la leggenda, il Buddha nel presentimento della sua fine terrena chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma di questi solo 12 andarono ad offrire il loro saluto. Come premio dunque per la loro fedeltà, il Buddha decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno di questi 12 animali accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo. Il diligente bue arrivò secondo, seguito dall'intrepida tigre e dal pacifico coniglio. Il drago arrivò quinto, seguito subito dal suo fratello minore, ovvero il serpente. L'atletico cavallo fu settimo e l'elegante pecora, ottava. Subito dopo arrivò l'astuta scimmia e poi ancora il coloratissimo gallo, il fedele cane e poi arrivò anche il maiale, anche lui c'è nell'oroscopo cinese. E allora dice anche la leggenda che il piccolo e furbo topo riuscì a battere il grande e onesto bue arrampicandosi sul suo dorso, evitò di percorrere la strada per arrivare al Buddha e, giunto nel luogo, saltò il bue e arrivò per primo. Sai, i topolini hanno questa... sono furbi, diciamo così. Onore al merito. Ecco, onore al merito. Poi c'è anche una piccola parentesi su il gatto e il topo, che è carino. Allora, gli animali che portò via furono il topo, il maiale, il toro, la tigre, il coniglio, un drago, un serpente, un cavallo, una capra, una scimmia, una gallina e un cane. Il gatto, il più bello degli animali... Vero, assolutamente, è il più bello di tutti gli animali. Un saluto a Pippi dalla radio. Sì, che ci starà seguendo lì, che appassionatamente. Il gatto della Jessica, così, certo, per farvi, per è il nostro primo fan. Bene. Però, nell'oroscopo cinese, adesso ti spiego, il gatto, che appunto è il più bello degli animali, chiese al topo di informarlo il giorno in cui l'imperatore di Giada sarebbe venuto a prenderli. E questa è un'altra leggenda. Ma il topo, geloso della bellezza del gatto, paragonata alla sua, non lo informò. Conseguentemente il gatto non si presentò all'arrivo dell'imperatore di Giada e fu sostituito con il maiale. Beh, insomma, arrivò prima il maiale. Vabbè. L'imperatore di Giada, affascinato dagli animali, decise di attribuire ad ognuno di essi un anno del calendario. Quando il gatto venne a sapere cosa era successo, si arrabbiò furiosamente con il topo. La leggenda vuole spiegare anche l'origine dell'inamicizia tra gatti e topi. Beh, aveva anche ragione comunque. Sì, ma sto topo così furbetto, hai capito? Ma il gatto ha dovuto sacrificarsi e non c'è nel calendario cinese. Volevo, allora, siccome il calendario cinese è formato appunto da anni di nascita, non posso dire tutti gli anni di nascita perché arriviamo dal 1900, insomma, quindi, però possiamo fare una piccola parentesi sui nostri. Allora, abbiamo scoperto questo, che io e la Rachele siamo del segno del coniglio. Yuhu! Perfetto. Quindi, coniglio vuol dire i nati sotto questo segno hanno molto talento e sono ambiziosi. Vedi. Dimostrano notevole capacità negli affari. Hai capito? Mica male. Bene, faremo su qualcosa. Prendetele come socie. Bene. Poi abbiamo la Jessica, che è un serpente. Mm. Il serpente, allora, dice così. I nati sotto questo segno parlano poco, sono molto saggi e generosi. Oddio, forse sulle... All'inizio. La seconda e la terza ci siamo anche. Sulla prima io direi che sti cinesi non avevano indovinato. No, forse sono più bravi con gli involtini primavera che con gli oroscopi, onestamente. E per ultima abbiamo visto che l'Aladdin è un bufalo. No, allora, toro o bue o bufalo. I nati sotto questo segno sono pazienti e poco loquaci, ma ispirano grande fiducia. Vedi Nadine? Ma vorremmo anche fare una piccola parentesi sul nostro regista, che lui è una capra. Ma non è un'offesa, La capra, qui dice... Allora, come... Eccolo qua. I nati sotto questo segno sono eleganti e hanno notevoli capacità artistiche. Bene... Conferma ciò o no? Comunque, se volete sapere il vostro segno, inviateci la vostra data su Facebook e noi vi faremo... Risponderemo avere... subito su che segno cinese siete. Bene, ora una canzone. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows. Ed ora lasciamo stare l'oroscopo cinese perché mi ha dato proprio dei risultati sperati e facciamo una piccola carrellata su cosa dice il 2011. Per i segni, per tutti i segni, una cosa veloce. Allora, Ariete, dopo un 2010 non al massimo, finalmente anche per l'Ariete arriva l'anno della rivincita, sia in campo lavorativo ma anche sentimentale, verso la fine dell'anno. Quindi aspettate un altro po'. Attenzione però che Saturno non ha ancora finito con voi, quindi insomma... Sperate. Toro, nel 2011 del Toro rappresenta l'anno dei cambiamenti, un anno strepitoso secondo alcuni, tanto da attribuire il Toro assieme al Sagittario lo scettro del miglior segno del 2011. Lavoro, soldi e affetti a volontà. Beati voi. Gemelli. Ecco, tocca a me. Per i poveri Gemelli, un inizio anno in salita, tanto per cambiare, e un fine anno in discesa. Speriamo bene. Quindi, alla fine, un alto e un basso si equivalgono. Un anno senza né alti né bassi, tutto procede, insomma. Quindi, insomma, vabbè, dai, dovrò trovare io qualcosa di spumeggiante. Cancro, oroscopo tribolato per il Cancro, che viene dato per spacciato da alcuni e in piena vitalità per altri astrologi. Chi avrà ragione? Nel 2012, l'ardua sentenza. Leone. Per il Leone si prospetta un buon 2011 con tante opportunità per realizzare i progetti in cantiere da tempo. Quindi, Raquel, interessante. Andate e procedete. Molto. Vergine. Anche per il segno della Vergine il 2011 è un anno tutto sommato in discesa. Ma attenzione a non trascurarvi. Ecco, regista, attenzione. Bilancia. Anno positivo con tante occasioni, soprattutto in campo lavorativo, nei primi mesi dell'anno. Amore va a gonfie vele, quindi andate a fare anche un po' di nuoto. Non si o sa di mai. Vela. O di vela. Non si sa mai che dopo nel momento proprio... Scorpione. Oh, bene, qui bene, c'è Jessica. Una pappardella. Qui ho grosse difficoltà nel riassumervi le prime anticipazioni. Da un lato trovo oroscopi disastrosi, con difficoltà di relazioni con il partner, difficoltà di controllo nel campo professionale, insomma uno schifo, ma dall'altro trovo oroscopi positivi, infatti di tante novità che vi sorridono. Io opterei per credere ai secondi. Un po' come con le faive. E infatti... Io mi sento nella seconda parte comunque. È pur sempre un vantaggio avere la possibilità di scelta. Decisamente. Sagittario, Ecco qui il segno privilegiato del 2011. Fortuna, amore, soldi, carriera, forza, bellezza. Sagittari miei, quest'anno gira tutto per il verso giusto. Dateci un po' di forza anche a noi, grazie. Capricorno. Peggio nel 2010 non poteva andare, quindi il 2011 prevede un recupero in tutti gli ambiti. Basta farsi accerchiare dagli affetti più cari e fare le scelte giuste. Insomma, aiutati che poi il resto verrà da sé. Aiutati che il ciel ti aiuta. Infatti, sì, aiutati. E poi aiuto. Help. Acquario. È la canzone dei Beatles, Help. Acquario, per l'acquario, un anno... da affrontare con razionalità e accortezza. Attenzione ai passi falsi. Pesci, al contrario, nei nati sotto il segno dell'acquario, i pesci dovranno usare meno la testa e più il cuore. Lasciatevi guidare dai sentimenti più spesso e vedete che le cose andranno nel verso giusto. Bene, dopo questo bellissimo oroscopo, io direi che è ora di andarci a riposare. Sì. Ragazze, dopo questa notte di fatiche che abbiamo passato a scorrazzare per i cieli di queste città, a portare caramelle ai bambini, non sulle darci delle befane però in modo così sputato. E comunque siamo pagate dai dentisti per portare le caramelle. Quindi mangiate dolci, mangiate. Che noi consumate gente. Ciao, buon gennaio. Ciao, buon inizio.